Si capisci, dici miglia, che la primavera incori, come quando si risbiglia la dolcezza dell'amore, lo sorriso tuo spaventa, la tristezza non canusce, ridi tanto e si contenta da tiniri o sull'inciuscia. Picciottedda innamorata, sino soli accecanti di una gioia sconfinata, si l'armata palpitanti. La mattina cali e chiani, e con gli angeli tu ridi, tu lo sai che è l'amore, e lo canti con l'uccelli, gli occhi tuoi sono brillanti, di amori innocenti, va pensando spasimanti, ti si vidi dagli denti, picciottedda innamorata, sino soli accecanti di una gioia sconfinata, si l'armata palpitanti. Capilli tuoi sorrici, neuri come Luca Giani, colita ricimici, va pensando a quanto l'ami, da lupietto hai una rosa, catadurna carni scura, la socca si ci posa, senti brividi e moddura. Picciottedda innamorata, sino soli accecanti di una gioia sconfinata, si l'armata palpitanti. Picciottedda spensierata, tu lo sai che è l'amore, arriva l'ora sospirata, arriva l'ora di l'arduri.